CQDX, il podcast dedicato alla tecnologia e ai radioamatori. C'è Giancarlo Calzetta, che ringrazio, l'ho inseguito per tanto tempo perché, visto la sua attitudine e la sua conoscenza del computer, Giancarlo scrive, diciamo, su una rivista del settore che si chiama Computer Week, una rivista diciamo molto conosciuta in ambito computeristico, una rivista anche economica. E quindi lo abbiamo interpellato, ha gentilmente risposto, a differenza di tanti suoi colleghi che non lo hanno fatto, e quindi lo abbiamo inseguito proprio per parlare con lui di computer, questo argomento che vorrei appunto un po' interfacciare a quelli che sono gli argomenti classici di cui noi radioamatori parliamo solitamente. Ecco, Giancarlo, innanzitutto ti saluto. Ciao Giorgio, ciao a tutti gli ascoltatori. Grazie per aver aderito a questa iniziativa molto casereccia. Parlare con te di computer è un argomento molto vasto, quindi io inizierei con un qualche cosa che, secondo, che leggo soprattutto su molte riviste del settore in questi ultimi periodi. Questi servizi online, o meglio questi programmi online che comunemente vengono utilizzati adesso. Mi spiego meglio. Di solito prima noi sul computer abbiamo installato Word, abbiamo installato questi programmi Packet Office, eccetera, eccetera. Tutti questi programmi abbastanza famosi. Però ormai queste operazioni si possono considerare del passato, nel senso che abbiamo molti servizi online, molti di questi programmi o magari similari si possono trovare online. Ecco, se ci vuoi dire qualcosa in merito. Sì, ci sono tantissimi sistemi che adesso funzionano esclusivamente online, e in realtà è la fusione di due concetti che su cui, diciamo, in tanti stanno lavorando da parecchio tempo, ma che finalmente, dopo una cosa tipo 10 anni, finalmente cominciamo a vedere in pratica. Una cosa è il cloud computing, cioè il computer nelle nuvole, che è praticamente un'astrazione di quello che è il nostro computer sulla scrivania. Tutti quanti abbiamo il nostro bravo computer sulla scrivania con l'hard disk, però abbiamo il problema che se succede qualcosa al nostro computer tutti i dati vengono persi, e se siamo fuori casa tutti i dati sono inaccessibili. E allora c'è il cloud computing, che praticamente si preoccupa di spostare tutto quello che è dato e applicazione direttamente su internet. Si chiama cloud perché è una cosa non proprio ben definita, nel senso che in ogni caso è una cosa un po' nebulosa, tu non sai dove stanno più i tuoi dati e dove stanno le applicazioni, però puoi accedere a queste cose ovunque tu sia. Non sono più solo sul tuo computer, stanno anche altrove, e allora possono essere utilizzabili ovunque. Un esempio classico di questa cosa sono per esempio i Google Docs. Se tu vai sul sito di Google, all'interno della sua pagina molto essenziale, c'è una parolina in alto a sinistra che si chiama altro. Tu ci clicchi e si apre una cosa che non finisce più, che sono tutti quanti i servizi che Google ha a disposizione. Tra questi c'è per esempio Google Docs, che è praticamente un programma di ufficio che può essere utilizzato ovunque senza installare niente, perché funziona tutto tramite internet. Certo, ecco, mi parlavi poi tu anche, oltre a questo argomento che sicuramente riguarda molti aspetti molto vasti, visto che i servizi a disposizione sono veramente molti, di sì, esistono, scusami Giorgio, volevo solo dire che esistono servizi anche per le foto. Adesso Adobe per esempio ha lanciato la versione via web della sua suite di ritocco delle immagini, quindi tu hai praticamente Photoshop direttamente che funziona da web, è una cosa pazzesca. Certo, aggiungo io anche un altro programma che io ho trovato veramente molto interessante, Screencast, che è un programma per fare appunto i tutorial. E anche questo fa parte del presente, cioè abbiamo programmi molto, molto belli, molto validi sicuramente per fare delle presentazioni, quindi per far conoscere eventualmente anche problemi che ci sono sul nostro stesso computer. Anche questo è un programma Screencast Recorder gratuito, spero ancora per tanto tempo, che ha veramente delle funzionalità, io l'ho provato, ha delle funzionalità veramente eccezionali. Va bene, mi parlavi poi anche di sistemi operativi mobili, i famosi MID, mi puoi spiegare che cosa sono? I MID sono, MID è la sigla di Mobile Internet Device, è una nuova trovata di Intel che si è messa in testa che il futuro deve essere dominato da una serie di mini computer praticamente che fanno tutto quello che adesso fanno i vari aggeggi che abbiamo in giro, praticamente i lettori MP3 piuttosto che i navigatori satellitari, piuttosto che i cellulari, dovranno essere tutti quanti dei MID, ovvero sia dei piccoli computer collegati a internet. Effettivamente essere collegati a internet può dare dei grandi vantaggi, perché per esempio se hai un lettore collegato a internet costantemente potresti decidere di non scaricarti più la musica sul lettore, ma semplicemente prepararti una serie di liste musicali da ascoltare e poi ovunque sei puoi scegliere che cosa farti mandare direttamente al server via internet, insomma, piuttosto che i GPS, i navigatori satellitari collegati a internet potrebbero avere dei veri servizi dedicati al traffico. Basti pensare a tutti i servizi di webcam che ha attivo il sito di autostrade. Se tu vai sul sito di autostrade vedi in tempo reale com'è la situazione su diversi punti dell'autostrada, perché c'è proprio una webcam piantata lì e lo vedi, insomma, non è che puoi farti tanti problemi e possono nascere dei malintesi come può succedere per esempio con i sistemi di controllo del traffico che ci sono adesso. Invece però hanno appunto bisogno di una connessione a internet e tra breve speriamo, insomma, che succederà. Adesso in realtà è il primo step, quello che si è appena fatto, quello che Intel ha appena fatto, ha annunciato dei processori che si chiamano Atom, che devono appunto servire a questi dispositivi che hanno bisogno di una grande potenza di calcolo, perché alla fine saranno dei veri e propri computer, non saranno più solo dei navigatori satellitari o dei lettori MP3 per esempio, ma saranno proprio dei mini computer a tutti gli effetti. Però una volta che saranno riusciti a dargli tutta la potenza necessaria, avremo un sacco di nuove opportunità, insomma. Certo, ecco, dopo un brevissimo stacchetto musicale volevo chiederti invece cosa offre adesso il web in fatto di programmi open source. Ecco, ritorniamo a noi e ti chiedevo appunto cosa ci puoi dire, cosa consigli a livello di programmi open source, ce ne sono veramente tanti, anche sulle riviste del settore, sulla tua rivista puntualmente vengono elencati programmi nuovi da scaricare. Io uso ISP e ti posso assicurare che mi crea, comunque ho sempre un po' di problemi perché a forza di installare programmi, insomma, non è che il computer li accetta sempre molto volentieri. Comunque veramente ci sono programmi molto belli adesso, c'è una vasta varietà di scelta in ogni settore. Ecco, cosa ci puoi dire al riguardo? Ma innanzitutto posso dire che chi programma open source è una persona da ammirare, perché programmare qualcosa non è una cosa che si fa in due minuti, insomma, ci vuole tanta dedizione e tanto tempo dedicato appunto a questa cosa, bisogna anche essere molto in gamba. Però tutti quelli che riescono a farlo effettivamente ci fanno un grandissimo regalo, perché qualunque cosa ti venga in mente adesso, se tu vai su internet trovi un programmino open source che si occupa di darti una mano a fare queste cose. Per esempio, anche per fare i casi più assurdi, ci sono dei programmi open source che si preoccupano di comandare in remoto i telescopi, per dirne una. Una cosa che una volta era impossibile da pensare, nel senso che una volta tutto quello che usciva dal semplice vedere le fotografie su internet o cose del genere era difficilissimo trovare qualcosa di gratuito e fatto bene. Adesso invece sono proprio dei progetti, per lo più tra l'altro sponsorizzati anche dalle università, quindi con una discreta equip di programmatori dietro e anche della gente con un bel po' di esperienza alle spalle, insomma, che riescono appunto a proporti delle cose estremamente interessanti, come per esempio anche in campo medico o ingegneristico trovi un sacco di programmi di simulazione che ti fanno vedere come costruire per esempio le strutture in cemento armato, piuttosto che come catalogare i dati dei pazienti in modo che sia estremamente efficiente poi riuscire a recuperarli. Si trova veramente di tutto, è molto molto bello. Tra l'altro internet è eccezionale per questa capacità di mettere la gente a lavorare insieme, che soprattutto perché è diventato molto semplice riuscire a mettere tanta gente a lavorare insieme. Addirittura chi non ha competenze proprio specifiche in un determinato settore può comunque collaborare a un progetto prestando, tra virgolette, a distanza il proprio computer. È il caso per esempio di quei programmini che si sostituiscono allo screensaver e aiutano i ricercatori nella ricerca contro il cancro, piuttosto che verso l'analisi dei dati raccolti dai radiotelescopi per la ricerca di intelligenze extraterrestri e così via. Certo, ecco, l'argomento è molto vasto e sicuramente io spero che tu potrai aderire tempo permettendo, perché il lavoro, insomma, gestire una rivista non è sicuramente... bisogna dedicarci tantissimo tempo. Concludiamo, ecco, parlando di blog, che sono ormai sulla bocca di tutti, nel senso, chi non ha sentito parlare di questi tipo, ecco, tu parlavi appunto di aggregazione, questo è un sistema abbastanza personalistico, ma nello stesso tempo pubblico, no? Che rende a disposizione i propri dati. Ecco, cosa ci vuoi dire a proposito di questo? Esistono molte piattaforme configurabili per creare il blog, adesso non vogliamo sapere qual è la migliore perché ce ne sono una vastità e non è questo il tema, non è questo il criterio di scelta. Volevo sapere semplicemente, ecco, quali sono le, come si può dire, le... è diventato semplice ormai creare un blog, qual è il futuro di questo sistema? Beh, creare il blog è diventato molto molto semplice perché ce ne sono veramente tantissimi e che funzionano veramente con quattro clic, nel senso che basta che tu ti iscrivi, scegli il nome del tuo blog, scegli la tua username e la tua password e poi non devi fare altro che riempire le caselline che il sistema ti mette a disposizione. Addirittura ci sono tantissimi blog, appunto, sistemi di blog che ti permettono di aggiornarlo tramite cellulare. Quindi tu mandi un messaggio, un sms piuttosto che un'email alla tua casella di posta del blog e il sistema si occupa di convertire quello che gli hai mandato e di postarlo direttamente sulla pagina. Quindi anche se sei in giro, trovi qualcosa di curioso, scatti una foto, mandi la foto direttamente al tuo blog da dovunque tu sia e riesci a far vedere ai tuoi amici, perché poi di solito i blog... la maggior parte dei blog si riferisce a una cerchia piuttosto ristretta di amici, viene fuori una cosa molto molto carina e interessante. Anche qui torna il discorso della connessione internet, perché se sei costantemente connesso a internet puoi vedere comunque in ogni momento per esempio dove sono i tuoi amici. Ci sono dei cellulari adesso che se vuoi possono comunicare costantemente a un blog piuttosto che ad altri cellulari che hanno lo stesso sistema la tua posizione. Di conseguenza tu guardi sul tuo cellulare e scopri che tre dei tuoi amici sono nello stesso centro commerciale che stai visitando al momento. Quindi magari gli dai un colpo di telefono e cominciate a girare per il centro commerciale insieme. Diciamo che il blog è una forma di espressione che è piaciuta moltissimo, soprattutto ai giovani, perché è estremamente immediato, è semplice da fare, è molto molto versatile, perché puoi mettere su veramente i tuoi pensieri scritti, piuttosto che una tua registrazione audio come stiamo facendo noi dopo tutto, piuttosto che addirittura un tuo filmatino e riesci a comunicare con la gente che poi può dare dei commenti a sua volta a quello che hai postato. Certo, ecco, a proposito di filmati sarà tema di discussione della prossima volta che ci sentiamo, perché YouTube sta spopolando, YouTube e con esso anche servizi che YouTube è il più conosciuto, ma ce ne sono molti altri che offrono le stesse possibilità e sono un po', diciamo, le manie del momento. Io stesso li utilizzo e effettivamente sono di una praticità, di una comodità notevole. Un'ultima cosa, ho visto che sulla rivista c'è uno spazio molto interessante dedicato agli aspetti legali. Di questo tecnico legale informatico, che è una figura che è sempre più difficile trovare. Io ho fatto una ricerca in internet, ma ti dico la verità, non sono riuscito a trovarne. Ed è sicuramente un campo che secondo me avrebbe successo, perché di casistiche ce ne sono tantissime. Ecco, non so, ci vuoi anticipare quello che sarà il prossimo argomento del tecnico legale informatico? Di che cosa si parlerà? Quali sono le ultime innovazioni in fatto sotto gli aspetti legali? Non riesco ad anticipartelo per un semplice motivo: le cose in internet cambiano così velocemente che il nostro avvocato scrive l'articolo il giorno stesso in cui va consegnato, perché effettivamente le cose cambiano così velocemente che anche un settimanale fa fatica altrimenti a reggere il passo. Quindi quando succede qualcosa, tipo per esempio le ultime disposizioni del garante della privacy nei confronti dei gestori di telefonia, che adesso finalmente potremo avere nell'elenco delle chiamate fatte il numero per intero e non solo le prime cifre con le ultime tre oscurate, l'abbiamo deciso il giorno stesso in cui c'era da fare il pezzo, perché questo effettivamente non è semplice neanche per loro riuscire a capire cosa sta succedendo in internet e quale legislatura applicare, perché adesso qualche avvocato specializzato c'è, ma la legislatura è rimasta piuttosto indietro e quindi è sempre abbastanza complicato riuscire a capire che cosa si applica dove, insomma. Certo, bene Giancarlo, io ti ringrazio per aver aderito e per aver dato la tua disponibilità, che spero possa essere estesa anche nelle prossime successive puntate, e ti ringraziamo, non ho altro da aggiungere. Grazie a te Giorgio e grazie a tutti gli ascoltatori, direi. Grazie, ciao. Ciao ciao. Avete ascoltato CQDX. Vi ricordiamo che questo podcast è collegato al sito www.notiziedigitali.it. Ci potete scrivere all'indirizzo ik2duv@gmail.com.